Posso innamorarmi di nuovo. La musica non è solo una parola. La musica è una cosa che mi consola. La vita mi riempie il cuore. Ma con la mano cado. Sorrido verso il